tempo. YouTube Social Village di Marta Cagnola. Una puntata, quella di questo Radio Tube Social Village, piena di tante cose: la televisione, la musica, i libri. Un'ora per stare insieme con un sacco di ospiti. Beh, parleremo anche di tutto quello che è successo questa settimana, le cose belle, le cose anche meno belle, le cose molto brutte che sono successe in questi giorni. Ma com'è che si dice, lo spettacolo deve andare avanti? Lo spettacolo deve andare avanti. Allora, 349-238-6666, il numero per i vostri sms e whatsapp, chiocciola Marta Cagnola per i miei account social, cioè Twitter e Instagram. Ci buttiamo subito negli argomenti e con gli ospiti di RadioTube. Dai, facciamolo così e iniziamo con la televisione. Manus alter altera quae esiti semper iam toi. Deu reconquitat lotonti. Extolonte atuete tolonti. Una lingua misteriosa, un periodo storico misterioso, un grande affresco epico e una realistica ricostruzione degli eventi che portarono alla nascita di Roma. Un mondo primitivo e brutale, governato dalla natura e dagli dèi, da cui sorgerà uno degli imperi più grandi e potenti di sempre. Stiamo parlando di Romulus, una serie Sky Original prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, partita ieri sera su Sky Atlantic e in streaming su Now TV, in proto latino ma anche doppiata in italiano. Ne parliamo con l'ideatore ma anche regista e sceneggiatore per la prima volta in un progetto TV, Matteo Rovere. Benvenuto a RadioTube, Matteo. Grazie, ciao, buongiorno. Matteo, allora ti chiedo subito, come ti è venuta l'idea di fare una cosa così complicata, coraggiosa, una serie davvero molto particolare? È una domanda che non ha risposta, devo cercare la risposta dentro di me, ma come dice Coelho è sbagliata, quindi evito di cercarla e ti rispondo che è stata una grandissima avventura, è stata per noi un'emozione unica portare in scena il racconto di questo periodo arcaico, di queste donne, di questi uomini, di tutti questi personaggi alle prese con queste avventure, come dire, bigger than life, all'ennesima potenza. E l'idea poi che il mondo arcaico abbia queste caratteristiche, se vuoi, di grande difficoltà, di grande complessità, che a me in qualche modo purtroppo mi evocano il contemporaneo, mi ha dato grande forza di racconto, perché insomma l'idea era quella poi di vedere come questi personaggi riescono a cavarsela, riescono a vivere, a sopravvivere e a cercare di fare il loro percorso anche di felicità, di emancipazione in un contesto che ovviamente è un contesto complesso. Un contesto complesso perché stiamo parlando di un periodo che è un po' in bilico tra storia e leggenda, perché di ricostruzioni storiche ce ne sono davvero poche, pochissime. Tu come hai lavorato sotto questo profilo? Ma diciamo che l'idea è stata quella di appunto andare in un periodo che, essendo agli albori della civiltà, per come viene poi riportata nella scrittura, nel senso che ovviamente la civiltà esiste già da molti secoli in tanti paesi del mondo, ma è nella nostra nazione e soprattutto nel Lazio siamo ancora in un periodo pre-storico, nel senso che viene prima della storia e quindi viene prima dell'avvento della scrittura. Del tempo abbiamo pochissime testimonianze, c'è la Fibula Prenestina, che è un manufatto con alcune iscrizioni, ci sono le epigrafi, ma c'è veramente poca materia, e tutto il racconto è stato fatto dopo, è stato fatto dalla Roma di età imperiale, che si è data, diciamo, in dei natali, se vuoi, semidivini, attraverso la costruzione, la reinvenzione del mito. Romolo probabilmente è esistito veramente, anche se insomma ci sono archeologi che dicono di no, archeologi che dicono di sì, e questo per noi sceneggiatori è grandissimo, è molto molto fertile, no, come racconto, perché ci porta in un mondo antico, ai confini, come dici tu, con il magico anche in qualche modo, perché poi come gli spettatori, i protagonisti, scusami, vivono questo mondo esterno è in una maniera appunto quasi soprannaturale, perché chiaramente non riescono a spiegarsi tanti fenomeni che per noi sono assolutamente comprensibili oggi. E questo ovviamente ci ha permesso di raccontare una grande avventura e raccontare poi di come questi personaggi cercheranno e troveranno, speriamo, il loro posto nel mondo. Personaggi che vedrete che sono poi femminili, maschili, insomma, raccontano tanto, e lo spazio della serialità finalmente ha avuto, insomma, è stato, ha meritato un racconto così, così esteso. Che cos'è questo proto-latino, questa lingua che avete utilizzato? Sì, diciamo che l'idea era quella, appunto, di prendere lo spettatore, sollevarlo carinamente dalla poltrona e portarlo in un altro mondo, no? Portarlo in un mondo di tanti secoli fa, con le sue regole, con le sue leggi, anche con i suoi suoni, che sono fatti ovviamente di suoni degli animali, del bosco, della natura, ma anche della lingua. E quindi con le latiniste, le nostre professoresse, i nostri docenti, Gianfranca Privitera, Daniela Zanarini, con gli archeologi Valentino Nizzo, Paolo Carafa, Carandini, insomma, abbiamo costruito questo mondo, che era un mondo fatto di segni, di costruzioni, di strutture, di costumi, di armi, ma anche di lingua. E l'avventura è stata bellissima. Ovviamente gli attori hanno fatto una grande fatica, ma si sono molto molto divertiti a costruire questa lingua musicale, che poi era diventata in qualche modo anche comprensibile per loro. Tu pensa che ogni attore sapeva non soltanto le sue battute, ma anche quelle di tutti gli altri che erano lì, insomma, nelle diverse scene. E questo ci ha permesso, insomma, di creare una serie iperrealista che racconta l'ottavo secolo in una maniera spettacolare, ma allo stesso tempo è appunto fruibile, speriamo, da tanti. E gli ascoltatori non ti vedono, io sì, perché siamo in collegamento video, e non vedono che la tua faccia è molto divertita, ma io sì. Sì. Devo chiederti un'ultima cosa. Ovviamente ci chiediamo quali sono i punti di contatto, se ci sono punti di contatto, con il tuo film Il Primo Re. Allora, diciamo che l'idea era quella di realizzare due racconti diversi del mito fondativo di Roma. Uno è il racconto del Primo Re, che è un racconto mitologico, quindi prendiamo il mito e lo mettiamo in scena, no? E diciamo che esistono realmente Romolo e Remo e raccontiamo la loro avventura con un nucleo tematico ed emotivo molto forte, molto preciso, e che ha la dimensione di un film. Qua invece facciamo un percorso completamente diverso. Non a caso la serie mi era venuta in mente prima ancora di realizzare Il Primo Re, cioè andiamo a ricostruire, seguendo un po' la tesi di tanti storici, il Lazio dell'VIII secolo avanti Cristo, quindi composto da 30 tribù che vivono 30 città diverse, capeggiate da un unico re, che è il re di Alba Longa. Alba Longa al tempo era considerata, diciamo, il centro politico e religioso del Lazio, appunto, dell'VIII secolo. E in questo tumulto, in queste ovviamente scontro di civiltà, un po' effettivamente alla Game of Thrones, mi viene da dire, emergono dei personaggi che sono i nostri protagonisti: Ilia, interpretata da Marianna Fontana, Iemos, Viros, Andrea Arcangeli e Francesco di Napoli. E questi protagonisti compiranno un percorso che poi creerà la leggenda. Cioè, la leggenda ovviamente è una rielaborazione successiva, e quindi ci siamo chiesti come potrebbe essere nata questa leggenda, cosa è successo veramente nell'VIII secolo avanti Cristo che ha dato il via a questo racconto mitologico che poi è stato fatto successivamente. E questo è affascinantissimo per me, perché ovviamente faccio anche lo sceneggiatore, e quindi l'idea di queste storie che si trasferiscono oralmente, per cui le persone hanno preso quel racconto, lo hanno riraccontato infinite volte, come le fiabe dei nonni quando eravamo piccoli, che poi in qualche modo diventavano qualcos'altro. E in questa trasformazione ovviamente tu immaginati che gli sceneggiatori, io, Guido Iuculano, Filippo Gravino in questo caso, sguazziamo, come si suol dire, perché diventa terreno di divertimento, di ricostruzione fedele, ma anche di fantasia. E dunque è partita ieri sera su Sky Atlantic una serie davvero da non perdere, molto particolare, è una chicca, seguitela. Romulus, grazie per essere stato con noi, all'ideatore ma anche sceneggiatore e regista Matteo Rovere. Grazie Matteo. Grazie a te, grazie, ciao. Radio Tube Social Village. Ve l'ho detto, una puntata piena di ospiti, adesso parliamo di musica. Te lo ricordi quell'anno? Mi sembra una vita fa. Forse anche più lontano della maturità. Quando eravamo diversi È così strano se ci penso a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio. Ci credevamo immortali, senza obblighi, senza orari, e volevamo soltanto osare, e volevamo soltanto andare. Guardavamo avanti e non nello specchietto, senza accomodarci mai in sala d'aspetto, sperando arrivasse qualcosa di nuovo. Solo qualcosa di nuovo nella notte, come un tuono, senza avere paura mai di sbagliare, lo sai. Che poi la vita è troppo breve per fermarsi e non rimettersi in gioco. Stammi accanto, manca poco, la corrente ci porterà di preciso dove non si sa, ma qualcosa di nuovo si troverà. Te lo ricordi quel giorno? Qualcosa di nuovo è il nuovo singolo, ma anche il nuovo album con lo stesso nome, di un artista che amiamo molto. Non si può non voler bene a Max Pezzali. Ciao Max. Ciao Marta. Max, sì. Bentornato, era da un po' che ti aspettavamo. Com'è questo rientro? Come lo senti? Se fossimo in un momento diverso, probabilmente sarei entusiasta, ma senza riserve. Ecco, adesso ho un entusiasmo un po' con riserva, no? Dovuto un po' alla condizione che stiamo vivendo. D'altronde sono convinto che è proprio nei momenti di difficoltà, no, che la musica pop, quindi la musica, diciamo, per certi, la canzonetta ha ancora maggiormente la dignità dell'accompagnamento della vita di tutti. Cioè, non ci si è fermati mai, neanche durante le guerre mondiali, no, dal fare e ascoltare musica pop. Quindi tutto sommato, insomma, speriamo di dare il nostro contributo, perché anche la canzonetta ha un suo perché di questi tempi. Dai, poi la tua musica ci ha sempre accompagnato negli anni, siamo pieni di ricordi con le tue canzoni, quindi anche questa cosa che sarà da ricordare ce la terremo. Aspetta che ho trovato una definizione, tiro fuori gli appunti da secchiona, okay. Ho letto una definizione che hai dato del tuo singolo, ma che secondo me è perfetta per te: un sottofondo di malinconia ottimistica. È vero, è verissimo, è vero, è che è un po' quello che sono io, no? Io credo di avere sempre in ogni cosa che faccio una base malinconica, perché la malinconia è insita in me. Ho scritto una canzone che si chiamava Gli anni nel 1904, quando uno non sa di che cosa essere, cioè che cosa vuoi rimpiangere a 27 anni, cioè verrebbe da dire al me stesso di allora. Però ecco, quella malinconia mi accompagna da sempre, forse uno stato naturale, però non mi lascio mai soggiogare dalla malinconia. La malinconia è sempre prodromica al perseguire una sorta di serenità, che poi non è la felicità, no? È l'idea che ci sia sempre qualcosa di bello dopo la prossima curva, no? Oltre la linea dell'orizzonte. Ed è una cosa che mi porto dietro da quando ero piccolo. Insomma, non riesco a vedere il lato negativo, solo il lato negativo nelle cose, ecco, mettiamola così. Ma meno male. C'è una cosa che mi fa impazzire. Io mi sono ascoltata un sacco di tue interviste di questo periodo. Ho letto tutto. E in questo periodo torna la definizione di boomer in maniera un po' sì, autoironica, così già i ragazzi mi danno del boomer, mio figlio mi dà del boomer. Però Max, io ti devo smentire, perché secondo me tu sei la Edo della generazione X. No, vabbè, guarda, ti ringrazio, è vero. Io infatti ogni tanto lo dico a mio figlio, guarda, al limite Xer, cioè non boomer. Che poi è la migliore. Diciamocelo. Esatto, io la racconto così, no? Quando la devo raccontare anche a mio, cioè faccio capire che forse noi, appunto, come Xer siamo gli ultimi ad avere vissuto, cioè i boomer sono i baby boomer, sono, cioè adesso stiamo vivendo, sai, quando uno pensa anche alla politica, eccetera, c'è ancora un bello spazio per i baby boomer, no, nel mondo. però noi siamo gli exer, siamo quelli che sono arrivati dopo, che sono che per ultimi hanno diciamo avuto esperienza del mondo lento di prima, e per primi hanno avuto esperienza del mondo veloce della rete e della connessione globale. Quindi quello che può essere un limite, cioè non essere né carne né pesce, in realtà può essere un vantaggio, ovvero avere una memoria di com'era il mondo prima e avere una conoscenza di come il mondo adesso potrebbe esserci utile per interpretare meglio quello che accade. Io lo raccontavo qualche settimana fa proprio qui a RadioTube con un grande amico di RadioTube che è Davide Ferrario, che tu conosci bene. Assolutamente, e che ringrazio perché è uno degli artefici di questo album, è uno dei mastermind, forse il più mastermind di tutti dietro a questo album. È un caro amico di RadioTube, spesso viene a condurre con me, e ricordavamo di quando, poco prima che tutto si fermasse, abbiamo fatto una bella serata con un bel karaoke delle tue canzoni, sì. Per il lancio di questo San Siro Canta Max. Cioè, è solo rimandato, perché io allora le sapevo già tutte, adesso con un anno in più per ripassarle, cioè, posso salire sul palco io. Verissimo, è solo rimandato. Io appunto tengo buone le date che mi sono state comunicate anche a me, quindi 9-10 luglio 2021. Sono ottimista sempre per natura, quindi so che oggi sembra assurdo pensare alla fine di tutto questo, alla possibilità di aggregarsi e di fare un concerto, ma mi rendo conto che qui la situazione è fluida, come dicono quelli bravi, quindi le cose stanno cambiando, ognuno sposta sempre più indietro il termine in cui sarà disponibile probabilmente un vaccino, insomma vediamo che cosa succederà. Non voglio unirmi al coro di quelli che dicono la loro su questo tema, perché ce ne sono già troppi di pareri di incompetenti, quindi non voglio essere uno in più, però dico, io credo di arrivare là sopra, e insomma sono sicuro che sarà, quando riprenderà la stagione dei concerti, sarà probabilmente la più grande stagione musicale che l'umanità abbia vissuto nella storia recente. Cioè non ci sarà neanche Monterey 67, Woodstock, cioè quell'epoca lì la batteremo, perché ci sarà un bisogno da parte di tutti di stare su un palco, di cantare insieme alle persone, per le persone di unirsi in coro, che sarà la più grande stagione live della storia. Dovrò cominciare a drogarmi, perché li andrò a vedere tutti. Sì, un anno, bisognerà prendersi un anno di aspettativa e tutti in giro per stadi, campi, cioè tutto così. Vero. Sarà così. Allora, tra le tante cose che noi sognavamo, e lo so che te lo hanno chiesto tutti e voglio chiedertelo anch'io, era la reunion degli 883. Sì. Cioè, tutte le band hanno fatto la reunion, cioè non ce l'hanno fatta solo i Beatles per ragioni che sappiamo, ma tutti l'hanno fatta, quindi è vero, no? Ma pensa, eravamo già pronti, perché Mauro sta lavorando da tempo anche a delle cose, mi sembra novembre, da quando avevamo più o meno annunciato ottobre, novembre, si era messo sotto e ha detto cacchio che figata, allora dai, si è rimesso a studiare la chitarra, si è messo a fare delle cose, insomma era caldo anche lui e pronto a salire sul palco. La reunion è solo rimandata. Grandissimo. No, guarda, veramente adesso, cioè, io sono pronta a chiudermi in casa fino a quel momento per bloccare tutti i contagi. No, ma ci sarà da divertirsi. Non ho dubbi, e ne avremo molta voglia. Devo chiederti ancora una cosina sul disco, perché adesso i giovani fanno tutti i featuring e anche tu hai fatto i featuring. Sì. Ma sai, ci sono due tipi di featuring. Il featuring classico adesso è diventato una sorta di strategia, è un po' come, cioè, nel calcio, no? Ci sono i giochisti, ci sono i risultatisti e ci sono i featuringisti, no? Il featuringismo consiste più o meno normalmente in questo, cioè specialmente d'estate prendi diversi ingredienti che dal punto di vista demografico e di social, eccetera, possono fare possano rappresentare una massa critica in modo tale da poter arrivare a un numero di visualizzazione, di click, eccetera, eccetera, che porti il pezzo al primo posto o ai primi posti delle classifiche. Non è il nostro caso perché qui i featuring sono concepiti in funzione, diciamo, narrativa. A me interessa se c'è un obiettivo narrativo. Esempio, J-Ax è uno che col quale, a parte che ogni tanto facciamo un featuring uno da una parte, uno dall'altra, e perché? Perché siamo cresciuti in un'epoca molto simile, abbiamo avuto dei binari paralleli, cioè abbiamo osservato la stessa realtà da punti di vista un po' diversi, un po' sfasati. Quindi quando c'è bisogno di un occhio reppante sulla realtà di certi decenni che abbiamo vissuto, come nel pezzo 70-80-90-2000 dell'album appunto in questione, di qualcosa di nuovo, cioè io so di potermi rivolgere con sicurezza a lui perché capisce che cosa intendo, non devo neanche spiegargli cosa vorrei che lui raccontasse, mi manda già le barre fatte, dice perfetto zio. Allora, ok, nel caso di Johnny Scandal, ecco, lì c'è stata una sorta di condizionamento involontario da parte di mio figlio, cioè nel senso che io, anche quando siamo a Roma, noi siamo due specialisti del divano, cioè siamo tutti di sport, cioè che siamo seduti, lui col controller o con l'iPad, io con le mie cose, e sentivo delle cose sue, c'era anche Johnny Scandal. Poi è bello quando incontri questi ragazzi giovani, perché appunto anche con Davide ne abbiamo parlato tante volte, cioè oggi hanno una, sono tornati un po' all'etica do it yourself del punk degli anni 70-80, cioè dato che oggi devono prima costruirsi il loro progetto, la loro fan base e poi arriverà il successo discografico, ma una volta che si sono costruiti questa cosa, devono essere bravi a fare un po' tutto, cioè devono essere degli ottimi manager di se stessi, devono essere anche un po' producer, devono essere un po' beatmaker, un po', cioè mi affascina questa cosa qui, che devono imparare a fare da soli molto più di prima, devono avere l'amico che fa i video, no? Che quindi li aiuti dal punto di vista delle cose visual, cioè mi affascina sempre parlare con questi ragazzi perché c'è tanto da imparare. Allora, io non so se sei dove volevi essere a 50 anni, dove saremo. Io ti posso dire che sono dove volevo essere, perché io sul diario avevo incollate le foto di Max Pezzali, quindi sono anche molto contenta di questo disco, di questo singolo, sono contenta di aspettare i San Siro veri, come dico sempre, esatto. Io, non le fettine di San Siro, quelli che dicono hanno fatto il sold out e hanno preso mezza curva, no, il San Siro vero. grazie Max, grazie, un abbraccio, Marta. Enorme. Sempre un grandissimo piacere, spero di poterti vedere e abbracciare di persona al più presto. Speriamo prestissimo, un abbraccio Max, grazie. Ciao Marta, un abbraccio a te. Ciao. Radio Tube Social Village. Eccoci ancora insieme. Beh, a volte capita che le interviste non si possano fare in diretta per una questione di mezzi tecnici, collegamenti, a volte non si possono fare in diretta per una questione di fuso orario. E allora cosa si fa? Beh, questa l'abbiamo registrata qualche giorno fa e la vorrei introdurre così. E ti vengo a cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza, per capire meglio la mia essenza. Sentimento popolare nasce da meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri. non accontentarmi di piccole gioie quotidiane. Fare come un eremita che rinuncia a sé. E ti vengo a cercare. E ti vengo a cercare, una pietra miliare della storia della musica italiana del Novecento, uno dei classici rivisitati in Accetto miracoli, l'esperienza degli altri, rivisitati da un artista che in questi giorni racconta anche la sua vita in un documentario pubblicato proprio ieri da Amazon Prime Video. Il documentario si chiama Ferro e in collegamento con noi da Los Angeles, Tiziano Ferro. Ciao Tiziano! Ciao Marta! Tiziano, bentornato a RadioTube. Che peccato così a distanza. Devo chiederti subito, voglio partire dal film. Ti posso chiedere, e la domanda è banale, ma allo stesso tempo complicata, perché? Innanzitutto un bacione, un abbraccio a te Marta, e devo dire che sì, è un dispiacere non vedersi di persona, però diciamo celebriamo anche il privilegio di poter fare questi collegamenti, perché fosse accaduto questo delirio 15, 16, 18 anni fa non avremmo avuto neanche questo privilegio, quindi guardiamo anche il lato positivo che comunque inevitabilmente c'è, perché io comunque a casa non lo sanno, ma ti sto vedendo ed è un sorriso bello, sì, meraviglioso e belle, bellissimo. Vabbè, ma come non si fa ad avere? Certo, vuoi non avere le cuffie rose? Ce l'ho anch'io, sì, ed forza. Esattamente quella marca e quelle che hai in testa tu, se proprio vuoi saperlo. È dello stesso colore, ce l'ho sia bianche che rosa. Grande Tiziano. Dunque, tornando alla tua domanda, il perché, forse non c'è un perché, però quello che mi sento di dire è che io ho iniziato la mia carriera a 20 anni. A 20 anni non sai chi è, chi sei, non sai cosa vuoi, però tutti te lo chiedono: chi sei, cosa vuoi, dove vuoi andare? Non ne hai idea. Io sono stato obbligato a crescere di fronte alle telecamere, di fronte agli obiettivi, di fronte ai microfoni, e l'ho fatto mio malgrado e tentando di prendermi i miei spazi il più possibile. Ho fatto quello che un tardo adolescente fa prima di diventare uomo, ma lo fa in privato, lo fa con se stesso. Io l'ho dovuto fare, punto e basta. Per cui la strada era fondamentalmente divisa in due, cioè vivere una vita con gli specchi di casa appannati, facendosi bastare il disco di platino e le esperienze della musica, che sono state anche molto belle, ma che non mi permettevano di crescere e di imparare. E io ho scelto di guardarmi dentro e di crescere come persona, fregandomene, una parola brutta, però diciamo a prescindere da quello che poi gli altri avrebbero pensato di me, perché io comunque non stavo bene. Per cui a 40 anni mi sento libero di parlare di me stesso, di raccontare quello che voglio e di farlo senza nessun timore, perché mi sono strappato con le unghie questo diritto, con me stesso, con gli specchi di casa mia. E quando tu ti prendi questo diritto con te stesso, poi parlare con gli altri diventa molto semplice in realtà. Allora, dopo aver visto questo documentario, finalmente mi sono detta: c'è qualcuno che piange più di me. Quanto sei piagnone, Tiziano, quanto ti commuovi. No, non accetto questa cosa, non l'accetto, no, la rifiuto, no, devi, la rifiuto, devi arrenderti. E ti denuncio per diffamazione, perché è importante dire che queste, le lacrime che vedi nel documentario, sono sempre lacrime di soluzione, a monte di un festeggiamento. E allora bene così, se uscire da una dipendenza vuol dire anche ubriacarsi di lacrime che non hai pianto, che hai trattenuto, che hai negato a te stesso, allora viva quelle lacrime. Per cui, tornando alla tua domanda e seriamente, sì, ci sono diversi momenti di pianto, però voglio che si sappia che è sempre pianto celebrativo, cioè pianto di soluzione, non è pianto per il problema. Ecco, questa è la cosa che però ci tengo a dire. È vero, si capisce nel documentario, questo lo devo riconoscere. Allora ritiro la denuncia per diffamazione. Questo, il mestiere che ti sei scelto o che ha scelto te, non lo so, credo tutte e due le cose, è un mestiere, secondo me tutte e due, è un mestiere che chi ha una certa sensibilità e empatia nei confronti del mondo fa sicuramente meglio, ma questo lo fa soffrire di più. E questo paradosso è pazzesco per gli artisti. Cioè, lo fai perché soffri, ma poi ti fa soffrire. Sì, è una gabbia inevitabile, no? Ci passi sempre sbattendoci, rompendo i denti per spezzarla. In realtà credo che sia quasi necessario per un artista vivere un po' sul ciglio del burrone. Io ho sempre amato gli artisti che, pur molto, molto riservati, poi nell'arte hanno dichiarato delle verità drammaticamente laceranti. Penso a Pasolini, ma penso anche nella musica a Freddie Mercury, ce ne sono mille, no? E non puoi uscirne fuori. Spesso quando mi chiedono, so perché mi è venuta in mente questa cosa, ma perché hai fatto Sanremo, 6 giorni a Sanremo, ma sei matto, non dovevi fare pubblicità, il disco era già uscito, il tour era praticamente sold out. Io rispondo sempre: un po' l'ho fatto per quel bambino che lo sognava e un po' l'ho fatto perché ti devi mettere sul ciglio del burrone. È quasi obbligo morale per chi fa questo mestiere, capito? Cioè, quelli che ti dicono: non lo faccio perché non ne ho bisogno. Sì, per carità, sarà anche vero, ma non mi basta come risposta. Ti devo dire una cosa che non entrerà nell'intervista, ma io ho dato il mio primo bacio a uno sbandieratore di cori. No! No, vabbè, sai che mia madre è di cori. E per questo, quando ho visto questa cosa ho detto non ci posso credere. Ma sai che io ho dei ricordi bellissimi di questi sbandieratori vestiti con questi drappi rossi. Anch'io ho dei ricordi bellissimi. Vabbè, tu ce l'hai ancora di più. Ma tu non lo sapevi, quindi? Beh, certo, non l'ho detto spesso. No, non lo sapevo. Mia madre è nata a Cori e i miei nonni erano tutti e due lì. Ma scusa, no, però ti voglio rubare 5 a Parigi. Ti volevo rubare 5 minuti in più e ti volevo chiedere come è avvenuto il contatto con lo sbandieratore, ma già me l'hai detto, quindi vacanza. E tu a Parigi non vuoi trovare uno sbandieratore di Cori? No, questa storia, scusa, ma è talmente bella che se non la inserisci veramente mi offendo, perché è stupenda. Ma scusa, ma che figata pazzesca, ma tutto la rappresentazione nella... No, sei stupenda, guarda, questa è il vero documentario tuo, non mio, tuo, però lo voglio. Vabbè, allora, il disco. Quando fai un disco del genere ci metti inevitabilmente un sacco di vita, perché tu scegli dei capitoli della tua vita. È una cosa importante. Sì, è importante, ma è importante per chi fa questo mestiere, cioè nel senso... io sono convinto che se tu chiedessi a tutti i cantanti, i cantautori che intervisti, avresti voglia di fare un disco di cover, tutti ti direbbero sì, e chi ti dice no mente, perché io credo che inevitabilmente è talmente bello cantare le canzoni degli altri, perché ti hanno formato, perché ti hanno insegnato qualcosa. Il bello di farlo a 40 anni è che inizi anche un po' a fregartene, no? Del preconcetto sul fatto che i mostri sacri non si toccano, perché in realtà il mostro sacro si tocca, si deve toccare, perché bisogna celebrarlo. Cioè, se non leggessimo ancora I Promessi Sposi ce ne dimenticheremmo, perché naturalmente sarebbe così. Qui è giusto invece dare spazio a questi grandi autori e permettere che comunque trovino vita nuova, e non lo dico con presunzione, lo dico perché è veramente così. Cioè, il fatto che Rimmel di De Gregori sia tornata in alta rotazione in radio probabilmente non sarebbe successo, e che figata, ecco, lo dico con un po' di sana presunzione, per cui c'è questo nel disco di cover, c'è la voglia, il bisogno di restituire a questi maestri quello che mi hanno dato, senza confronti, soltanto amore, solo celebrazione. Allora Tiziano, io devo dirti una cosa, io avevo visto un po' di foto di tuo marito, però adesso che l'ho visto bene il documentario devo dirti che è proprio figo. Quindi diglielo da parte mia. Mi dirò. E se per caso c'ha un fratello, un cugino, così tu, no, ti giuro, stai vincendo tutto oggi. Guarda, hai vinto tu oggi. Io arrivo. Allora Tiziano, io ti devo ringraziare tantissimo, perché io, vabbè, mi sono fatta un po' di pianti guardando il film, perché c'è tanto della tua vita, ci sono tante cose in cui poi un pochino ci riconosciamo tutti, perché per tante cose, anche se non proprio così, magari un po' diverse, però ci siamo passati tutti, e se non abbiamo avuto la musica ad accompagnarci, però ci abbiamo sempre quel giro al supermercato che ci tira su di morale. Io ti dico, Marta, grazie, perché il momento catartico al supermercato è qualcosa che inevitabilmente conosciamo tutti. Il supermercato è tante cose, no? È l'infanzia, è il cibo, è la progettazione, è pensare ad una cena con gli amici, è pensare a quello che ti mangerai per farti un regalo, purtroppo pensi anche alla dieta, però sei solo con te stesso, inevitabilmente sei in quella bolla nella quale comunque un po' tutti filosofeggiamo, volendo o meno, no? E per il resto sì, speriamo la musica dal vivo torni molto, molto presto, e se dovesse tornare ci saranno anche alcune di queste canzoni. Non vedo l'ora. E quando tra gli scaffali del supermercato, la radio del supermercato, passa una canzone di Tiziano, io la canto ad alta voce e non me ne frega niente di nessuno. Sì, fatti un video, ti prego. Grazie Tiziano, un abbraccio forte che parte da qua alla zona rossa e arriva alla zona rossa in California. Pazientiamo. Grazie a te, Marta, e un abbraccio a te e a tutti gli amici di Radio 24 che amo veramente tanto. Siamo isole nell'oceano della solitudine, e arcipelaghi le città dove l'amore naufraga. A piedi un cuore rotola, la carezza solo la musica, musica. Eccola, eccola, questa Cigarettes and Coffee, ve la ricordate? Un brano bellissimo di Scialpi che Tiziano Ferro ha tirato fuori in questo suo Accetto Miracoli, l'esperienza degli altri. Bello, bello aver incontrato, anche se a distanza, appunto qualche giorno fa per via del fuso orario, Tiziano. Sempre bello chiacchierare con lui, che come vedete è una persona davvero estremamente simpatica. Allora adesso una breve pausa, viabilità, e poi saremo ancora insieme con RadioTube. RadioTube Social Village. Nell'ultimo spicchio di questa prima ora di RadioTube parliamo di un libro molto particolare. L'ha scritto un uomo che solitamente ci fa ridere, ma questa volta apre un capitolo difficile e doloroso della sua vita. Il rapporto con un fratello complicato, tra dipendenze, conflitti, mancanza d'amore. Un fratello franco, anzi franchino, che ha perso il 27 dicembre 2011 e ora ci racconta questa storia commovente, dolorosa, in Io sono mio fratello, edito da Mondadori, Giorgio Panariello. Buongiorno Giorgio. Eccomi. Giorgio, ti chiedo subito, io ho divorato il tuo libro ed è un libro piuttosto doloroso, un libro che racconta la storia di tuo fratello che è mancato qualche tempo fa improvvisamente dopo una vita molto difficile, e la tua storia con lui. Mi racconti un po' la decisione di raccontare tutto questo, di metterti a nudo, di raccontare della tua famiglia, del tuo passato? Guarda, perché non ho avuto la possibilità, perché io stavo scrivendo uno spettacolo, si chiamava La favola mia, si chiama ancora La favola mia, ma non ho potuto portarlo in scena per i motivi che sappiamo. E questo spettacolo raccontava un po' la mia vita, raccontava gli inizi, raccontava gli inizi della carriera, raccontava le cose facili e difficili di una vita, e quindi non potevo prescindere da raccontare anche Franco. Allora avevo già scritto delle cose anche su di lui, perché ritenevo che bisognasse mettere un puntino, un punto esclamativo, e soprattutto rendere giustizia a un ragazzo che ha avuto sì un trascorso difficile, ha avuto difficoltà, ha avuto incontri anche che lo hanno portato alla rovina, no? Però insomma non era quello che probabilmente la gente poteva pensare fosse. E allora, scrivendo questa parte dello spettacolo, è rimasta lì, e durante il lockdown ho avuto il tempo, ho avuto la concentrazione necessaria, e anche la, come dire, la freddezza, no? Necessaria, fra virgolette, per affrontare questo argomento dopo tanti anni. E quindi mi sono messo lì, prima ho scritto una prima cosina, poi si è allargata e piano piano è diventato l'idea di un libro, e dove potevo anche, come dire, poteva essere una medicina anche per me stesso, insomma. Eravamo due fratelli unici, questa è la tua definizione. Sì, io ho avuto la fortuna, lo dico anche nel libro, ho avuto la fortuna di nascere un anno prima rispetto a Franco, perché quando venne adottato dai miei nonni, loro avevano già 5 figli, erano già persone in là con l'età, quindi non potevano permettersi né economicamente né fisicamente di tenere in casa oltre me un altro ragazzo che è arrivato fresco fresco, appena sfornato l'anno dopo. Ed è stata lì la fortuna mia e la sfortuna di Franco, perché se le cose fossero avvenute in senso invertito, probabilmente sarei io adesso a essere Franco. È per questo che il titolo di questo libro, perché Franco, ho rischiato di essere io tante volte Franco. E quindi insomma è stata una... però non mi è mancato l'affetto, perché i miei nonni hanno sopperito, no, la mancanza di genitori, di un padre e di una madre. Ovvio, non era una famiglia convenzionale, ma non mi è mancato l'affetto. Invece è una cosa che è mancata a Franco, ovviamente, e c'era questo suo disperato bisogno di essere amato, e qualche volta sbagliandolo ha pure preteso. Non si può pretendere di essere amati, lo si può chiedere, ma non lo si può pretendere. Finalmente sfati una leggenda che io non posso più di sentir dire e di sentir tramandare, e cioè che i comici in realtà siano uomini tristi. Non è vero, nel senso che poi ovviamente ci possono essere delle eccezioni in cui il carattere, però non è così. In realtà è un falso mito, nel senso che è un'impressione, no? Perché le persone che ci incontrano per strada pensano che siamo tristi perché non siamo così grulli come sono abituati a vederci, cioè ci vedono in TV a fare i cretini o al cinema a fare i personaggi, la potenza nei bracci, eccetera, eccetera, e pensano che siamo così, no? Nella vita. Magari non è così, magari ti incontrano un pomeriggio dove devi andare dal dentista, hai una preoccupazione, è ovvio che insomma ti vedono in un altro modo, e quindi dicono: oh, non ho visto Panariello, però triste, cioè, non me l'aspettavo. In realtà non è così, siamo malinconici qualche volta, sì, perché comunque la nostra comicità si basa sul dramma. Io ritengo che insomma tutta la mia infanzia, tutti i momenti di difficoltà non siano stato altro che carbone, che legna, no? Per dare, come dire, combustione alla mia carriera, perché poi sono tutte cose che, se tu leggi le biografie dei grandi comici o di chi è, degli attori comici in generale, hanno alle spalle sempre una piccola tragedia, insomma. È anche istinto di sopravvivenza a volte. Sì, bravissima. Noi abbiamo questa capacità innata e abbiamo la fortuna di avere questa capacità di sdrammatizzare, no? Anche i momenti più difficili. Ma questo è anche un dono dell'italiano in generale, perché se tu guardi anche all'inizio di questa pandemia, quando ancora non era così come adesso, oppure quando succedono i fatti anche di cronaca importanti, se tu vai a vedere su internet i messaggini che mandano o vedi su WhatsApp i meme che ti mandano, ti rendi conto che anche sui drammi peggiori siamo proprio, è la nostra capacità innata di sdrammatizzare. Ti devo dire che ti ruberò lo slogan che ti ha accompagnato lungo tutta la tua vita: è ora e ora. Aspettiamo un quarto d'ora. Aspettiamo un quarto d'ora, perché sì, sono i rivoluzionari moderati, quelli che vogliono andare in rivoluzione, ma moderati. Quindi è ora, aspettiamo un quarto d'ora, che forse è meglio, no? Sono i famosi indecisi, anche, sono gli indecisi. Io, infatti, nello spettacolo c'è anche un esponente, il leader del partito degli indecisi, che ha questa giacca cangiante che cambia colore ogni secondo, no? Come tutti quelli che cambiano casacca. Stavamo scrivendo un buon spettacolo, ma è là, cioè la fortuna che ho è che non è uno spettacolo attualizzato, quindi qualsiasi cosa succeda nel frattempo è una cosa che riguarda me e io non cambierò, è tutto là dentro, e anche Franco ci sarà là dentro. Beh, allora ho davvero una ragione in più per sperare che questo periodo difficile finisca, perché ci sarà anche il tuo spettacolo. Giorgio, io ti devo ringraziare per questo libro, perché hai reso giustizia a una vita, ma anche a una morte, e questo è importante. Bravissimo. Voglio mai usare quella parola, ma è la verità, è così. Ho reso giustizia a Franco per quello che è stato, perché non è quel, il tossico, fra virgolette, che intende la gente, perché non lo è mai stato in realtà, anche se lui faceva uso di sostanze stupefacenti. Tossico è un aggettivo che si associa molto bene a quella dipendenza, ma se chi conosceva Franco sapeva che qua nella testa il modo di fare era tutto meno quello. Infatti mi ha ingannato per anni per quel motivo lì. E poi anche nella sua fine non è stata come la gente pensa. Mio fratello è morto perché qualcuno ha pensato bene di abbandonarlo in mezzo alla strada piuttosto che davanti a un ospedale, ed è morto per ipotermia, quindi non per una overdose. Allora vi ricordo, Io sono mio fratello, edito da Mondadori, un libro difficile però pieno di cuore, anche pieno di verità. Grazie per essere stato con noi, a Giorgio Panariello. Grazie Giorgio. Grazie, ciao. Il 5 aprile la guerra era di casa, pioveva forte fuori dalla chiesa, la fame era nell'aria, la vita una scommessa, ma il prete continuava la sua messa. Allora io per la prima ora di RadioTube non ho voluto parlare della scomparsa di Stefano D'Orazio, è stato un brutto colpo. Questa era la sua 50 primavera, che era una canzone alla quale teneva davvero tanto tanto tanto. Però ne parliamo almeno un pochino, per quello che riusciamo a fare, per il dispiacere, ma dobbiamo farlo nella seconda ora, quella di RadioTube Social Network, che andrà in onda dopo il giornale radio delle 17.